Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, l'Europa. Abbiamo un ultimo sondaggio 2014, arriva dall'Eurobarometro e ci racconta che i più ottimisti d'Europa in questo fine anno sono gli irlandesi. Ben 8 su 10 sono infatti gli irlandesi che vedono un 2015 di uscita dalla crisi, da cui anche Dublino era sprofondata, forse prima di altre, a partire dalla crisi del subprime del 2008. A seguire in questa classifica dell'ottimismo-pessimismo, maltesi, polacchi e rumeni, mentre in coda al gruppo dei 28 troviamo greci, ciprioti, purtroppo proprio noi italiani, gli unici tre paesi in cui la maggioranza della popolazione vede ancora nero per l'anno che verrà. E parliamo ora dei dati americani che dimostrano, secondo il premier Renzi, che puntare sugli investimenti e la crescita funziona. Allora, su questo tema un'interessante intervista oggi sulla Stampa di Torino, intervista al Nobel Edward Prescott, dice: per rilanciare la crescita in Europa occorre creare un clima favorevole alle imprese che genera produttività e lavoro. Il consulente della Fed spiega perché l'Europa resta ferma mentre la ripresa USA corre veloce, dice: il vostro sistema paralizza il talento invece di favorirlo, è un peccato poiché avete delle potenzialità enormi. E ora parliamo invece di libri elettronici e di carta. Finalmente, diciamo, dai primi giorni del 2015 in Italia niente più differenze fiscali tra libri digitali e cartacei. Il servizio. Dal 1 gennaio gli ebook in Italia saranno trattati al pari dei libri cartacei ai fini fiscali. Con il via libera definitivo della Camera alla legge di stabilità è stata infatti sancita l'applicazione dell'IVA al 4% e non più al 22% sugli ebook, come avviene per i volumi di carta. Una vittoria per il paese e non solo per il mondo del libro, ha commentato Marco Polillo, presidente dell'AIE, l'Associazione Italiana Editori. L'Italia in questo modo riconosce ufficialmente che un libro è un libro, al di là del tipo di supporto. Il provvedimento era molto atteso dall'industria editoriale ed, oltre a dare una boccata d'ossigeno al settore, contribuirà alla sempre maggior diffusione del libro digitale nelle abitudini degli italiani. Grande soddisfazione per il ministro della Cultura Dario Franceschini, il quale però non nasconde il timore che in sede europea possa essere avviata una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Se sarà così, avverte lo stesso Franceschini, ci difenderemo come stanno facendo Francia e Lussemburgo, che hanno già ridotto l'IVA sugli ebook. Riccardo Cavallero, direttore generale Libri Trade del gruppo Mondadori. Il lavoro di convincimento anche degli altri paesi europei non sarà un lavoro facile. Io credo che sicuramente noi come editori italiani ci impegneremo in tutto il corso del 2015. Crediamo che sia una battaglia da fare e una battaglia che l'Europa deve capire. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una battaglia che l'Europa ha affrontato proprio nelle scorse settimane, purtroppo ancora senza risultati apprezzabili. Sicuramente sarà uno dei temi che ritroveremo all'inizio del 2015, e tra i temi che sicuramente continueranno ad accompagnarci appunto tra la fine e l'inizio del prossimo anno c'è quella della crisi internazionale in Ucraina, un'Europa molto presente, per alcuni addirittura vero e proprio innesco della crisi. Nel frattempo l'ultima notizia è che l'Ucraina rinuncia al suo status di paese non allineato e si avvicina alla NATO alla vigilia del nuovo round di negoziati. Iniziano tra circa due ore con i separatisti filorussi. Nel frattempo la NATO lascia la porta aperta all'eventuale decisione di Kiev, che però per ora non ha ancora fatto richiesta. Insomma, di certo c'è che il Parlamento di Kiev ha approvato un disegno di legge considerato da molti un passo storico, con cui il paese rinuncia allo status che lo manteneva equidistante dalle alleanze militari internazionali e si impegna a soddisfare i criteri di adesione all'Alleanza Atlantica. Schiacciante la maggioranza di deputati a favore, 303 contro solo 8 contrari. Ora il presidente ucraino Poroshenko, che aveva giustificato il testo con la necessità di difendersi dall'aggressione russa, dovrà promulgare il testo. Ha detto: l'integrazione europea ed euroatlantica è un cammino che non ha alternative per l'Ucraina. E con questo è tutto per Europa 24, l'appuntamento naturalmente continua come sempre sul web. Intanto un saluto da parte mia. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.